Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non è facile stabilire se la natura umana sia intrinsecamente buona o cattiva, se l'uomo sia portato al bene o al male. Al di là dei ragionamenti e delle riflessioni che filosofi e teologi hanno concepito nel corso dei secoli, prendendo in considerazione la storia recente del mondo, la storia del Novecento, è impossibile non rimanere sbigottiti davanti alle atrocità che l'uomo è stato in grado di commettere. Guerre, genocidi, torture, ogni genere di barbarie. E la lezione non sembra mai assimilata. Se si potesse stilare un'assurda graduatoria delle tragedie a cui abbiamo assistito nel XX secolo, le più atroci sono indubbiamente quelle che fanno leva sul razzismo, sul folle assunto che le differenze di razza, di religione o di orientamento sessuale renderebbero gli uomini diversi o inferiori. Parlando di odi razziali e di abissi di disumanità, non può che venire subito in mente la tragedia del nazismo. C'è un dato significativo per noi cacciatori di storie. Setacciando in profondità questi tremendi periodi della storia, emergono vicende incredibili, storie di straordinaria umanità, di uomini eccezionali che riescono ad andare oltre la politica, oltre la storia, oltre le divisioni, aderendo a una loro religione tutta laica, fatta di uguaglianza, di rispetto e di coraggio. Oggi vi raccontiamo proprio una di queste storie. Siamo proprio in piena epoca nazista, a un piccolo passo dalla guerra. Ma non siamo in Germania, siamo a New York. È il 19 giugno del 1936. Alle 20, allo Yankee Stadium del Bronx, salgono sul ring i nostri due personaggi di oggi. Sono due pugili, ma prima ancora sono due uomini agli antipodi, il cui incontro cambierà più volte i loro destini. Andiamo a scoprire insieme il primo. È soprannominato il Bombardiere Nero. Viene dall'Alabama. Si chiama Joe Louis. Joe Louis. È noto che gli States, nonostante appaiano come una società multietnica in cui le differenti razze sembrano decisamente integrate tra loro, hanno vissuto nel corso della loro storia odiose parentesi di razzismo. Soprattutto gli stati del Sud hanno portato avanti, almeno fino alla guerra civile della metà dell'Ottocento, l'inumana politica dello schiavismo, che ha visto sottomessi in catene milioni di uomini di colore. L'Alabama è uno degli stati del sud dove le condizioni dei neri sono rimaste più problematiche anche dopo la guerra civile e la liberazione degli schiavi. Le piantagioni di cotone su cui si reggeva l'economia dello Stato ai primi del Novecento generavano comunque fortissime tensioni razziali. Nel 1901 i neri riperdono il diritto di voto che avevano da poco ottenuto e dopo un decennio di lotte capiscono che forse è meglio migrare verso altre regioni. Nel pieno di queste frizioni, nasce qui in Alabama, il 13 maggio 1914, Joseph Louis Barrow, il futuro Joe Louis. Suo padre, un afroamericano, e sua madre, discendente di indiani Cherokee, sono figli di schiavi. L'infanzia di Joseph è veramente dura. Il padre, che lavora in una piantagione di cotone, viene internato in un manicomio quando Joe ha solo 2 anni. Si dice per avere protestato in maniera un po' troppo decisa verso i padroni. A Joe viene detto che suo padre è morto. In seguito scoprirà la verità. Joe però intuisce. Pur così piccolo, capisce la sofferenza della sua gente e cresce con un disturbo della parola che lo rende quasi muto fino a 8 anni. Negli anni 10, gli stati del sud vedono il razzismo incarnarsi in un folle esercito da incubo. Tuniche bianche con cappuccio, come le più fanatiche confraternite cristiane. Ritualità codificata e inquietante. Il Ku Klux Klan promuove l'odio di razza in tutta l'Unione e arriva fino a 4 milioni di membri. Non si contano gli atti efferati perpetrati da una costa all'altra. La famiglia Barrow scappa proprio dopo essere incappata in uno dei raid del clan. va a Detroit nel quartiere nero e inizia una vita quasi normale. Gus Adams è un amico di Joe negli anni di Detroit e ricorda così la vita nella città del Michigan. Il fratello di Joe aveva trovato un buon posto alla Ford. Lavorava alla catena di montaggio. E avere il badge della Ford cambiava nettamente le cose a quel tempo, anche per un nero. Anche Joe e io lavoravamo alla Ford, ma non nei mesi estivi. Nei mesi estivi vendevamo il ghiaccio nel ghetto. Joe è un uomo di poche parole e la cosa si presta a molti equivoci. La gente pensa che sia un po' stupido, anche perché il suo rendimento a scuola non è proprio dei migliori. Invece è solo un introverso che davanti alla stupidità del razzismo ha capito che le parole non contano più nulla. Il suo fisico però cresce. I muscoli forgiati dai lavori pesanti alla Ford e con i pesanti cubi di ghiaccio diventano d'acciaio. Ha solo 15 anni quando la sua prestanza fisica diventa un'ancora di salvezza. Su Detroit, come su tutta l'America, piomba la Grande Depressione. Joe perde il lavoro, ma a differenza di altri suoi coetanei che virano verso la criminalità, lui non sbanda. Si trova un'alternativa. Alternativa che si materializza al 637 di Brewster Street, sempre a Detroit. Qui c'è un centro ricreativo giovanile e qui Joe scopre il pugilato, come ricorda un altro amico di Joe, Walter Smith. Presso il centro giovanile di Brewster Street c'erano anche un ring, una piccola palestra e un allenatore di box. Joe, visto il fisico che aveva, per essere un quindicenne venne subito reclutato. Lo convinse un nostro amico, già discreto pugile, Thurston McKinney. E l'allenatore di quel centro, adesso non mi ricordo il nome, lo aiutò anche economicamente. La cosa buffa è che sua madre non voleva che combattesse. Lei era una violinista e voleva che Joe suonasse il violino. Per cui all'inizio nascondeva i guantoni nella custodia di un violino per non farsi scoprire dalla mamma. La box in generale, nell'America dei primi anni 30, diventa un nobile meccanismo di riscatto sociale. Le classi sociali che vivono con maggiori difficoltà il dramma della Grande Depressione generano soprattutto gangster o grandi pugili, come se a un certo punto questi ragazzi si trovassero davanti a un bivio. Lo scrittore americano Jack Newfield, esperto di pugilato, ricorda come la box negli States fosse anche una questione di razze e di etnie. Alla fine degli anni 20, negli Stati Uniti c'erano grandi pugili irlandesi, ebrei, italiani, afroamericani. In particolare in città come New York e a Chicago c'erano grandi rivalità etniche. I pugili rappresentavano la loro gente, al punto che ci potevano essere fino a 10.000 spettatori per assistere ad un combattimento tra due eroi di quartiere. In questo contesto Joe diventa il paladino del ghetto nero di Detroit e fa il suo esordio nel 1932 come peso medio massimo. Qui la leggenda dice che nel compilare i documenti prima dell'incontro, lui che non era proprio un asso con la penna in mano, abbia scritto così grandi i suoi due nomi, Joe Lewis, che per il cognome Barrow non c'era posto. In quel momento nasce la leggenda di Joe Lewis. È saputo che il primo combattimento di Joe Lewis coincide con una sconfitta contro un altro debuttante di lusso, il futuro campione olimpico John Miller. Subito dopo, però, i duri allenamenti e la determinazione danno frutti immediati. Joe colleziona una lunghissima serie di vittorie nell'ambiente del pugilato amatoriale, una striscia che lo porta fino a ottenere il prestigioso Golden Gloves. Per dare un'idea precisa del sogno molto concreto di rivincita sociale che i giovani pugili inseguono in questi anni, possiamo dire qualcosa sul campione mondiale dei pesi massimi degli anni 20, Jack Dempsey. Dempsey, che proveniva dai bassifondi irlandesi di una cittadina del Colorado, Manassa, era soprannominato semplicemente il massacratore per la violenza devastante dei suoi colpi e per l'impressionante crudeltà del suo modo di combattere, a volte anche oltre i limiti della correttezza agonistica. Pensate che in un match arriva a nascondere un ferro di cavallo nei guantoni per essere sicuro di far male all'avversario. Negli anni immediatamente precedenti la crisi del 29, Dempsey, presso le classi più povere, è più popolare del presidente degli Stati Uniti o del Papa. È un eroe, è l'uomo che ce l'ha fatta. Per il suo match contro il francese Georges Carpentier del 2 luglio 1921 accorrono 91.000 persone e lui guadagna $750.000, una cifra assurda, paragonabile agli stipendi annuali di un'intera squadra di baseball dell'epoca moltiplicati per 5. Questo è anche il miraggio che insegue Joe Louis. Questo è il suo modo per lasciarsi dietro le spalle la schiavitù, le piantagioni di cotone, il Ku Klux Klan. Quando nel 1933 si aggiudica il Golden Gloves, Louis mette il primo mattone per la costruzione della sua rivincita verso il mondo. Il secondo è la vittoria del prestigioso Chicago Tournament of Champions, un'altra importantissima competizione per pugili non professionisti. In un anno e mezzo di attività, Joe ottiene 53 vittorie e 4 sconfitte. È tempo per il salto nel professionismo. La boxe è sport di atleti e di grandi promoter. Uno di questi, nel 1934, mette gli occhi su Joe Louis e diventa il suo manager. Si chiama Julian Black e decide di non lasciarsi scappare un talento così puro. Attraverso le sue stesse parole, riviviamo le sue prime mosse per cercare di lanciare Joe verso il professionismo. Il primo grande problema era trovare a questo talento un po' indisciplinato un allenatore all'altezza. Il più valido tra quelli disponibili era Jack Blackburn. Blackburn aveva allenato diversi pugili, tra cui quel Jack Dempsey che vi abbiamo presentato prima. La sua reazione iniziale alla proposta di Black è negativa. Il trainer ha allenato solo pugili bianchi e afferma che non ha intenzione di perdere tempo con un pugile nero a cui non sarà mai concessa l'opportunità di combattere per il titolo. È a sua volta nero Blackburn, ma disilluso e disincantato. Quando accetta però di vedere di persona un allenamento di Joe Louis, cambia idea, come ha raccontato qualche anno dopo. Era semplicemente il talento più puro che io avessi mai visto. Non solo. Nei suoi pugni c'era qualcosa di straordinario. C'era una carica di libertà, voglia di vincere. Sotto la guida del suo nuovo team, Joe Louis combatte e vince 12 incontri nel 1935. Tutti contro pugili di alto livello, tutti possibili pretendenti al titolo. Ma la chance per giocarsi la cintura mondiale non arriva. Il mondo della boxe sembra non volere un campione nero. Ce n'è stato solo uno fino ad ora, Jack Johnson, negli anni 10. Il periodo in cui Johnson mantiene il titolo mondiale viene soprannominato negli ambienti bianchi del pugilato il Regno del Terrore. Johnson sul ring umiliava gli avversari dopo averli abbattuti. Li derideva. Aveva una condotta provocatoria anche fuori dal ring, mostrandosi, cosa scandalosa per l'epoca, sempre contornato di splendide donne bianche. Il promoter di Johnson nel 1935 si rivolge a Joe Louis. Vuole portarlo al titolo, come aveva fatto con Johnson. Ma per riuscirci, vuole lavorare sull'immagine pubblica di Louis. Vuole renderlo rassicurante, accettabile all'opinione pubblica. Si chiama Mike Jacobs e promette in pubblico, davanti alla stampa, che Louis conquisterà il titolo. Joe, sono felice di prometterti che diventerai il prossimo campione del mondo dei pesi massimi. Come tuo manager farò di tutto per farti combattere presto per il titolo. L'ex manager Julian Black rimane nel suo staff e si occupa proprio della sua immagine. Sul contratto che viene firmato ci sono delle clausole ben precise che vengono messe nero su bianco e che riguardano proprio questo aspetto. Mai farsi fotografare in pubblico in compagnia di una donna bianca. Mai infierire su un avversario a terra. Mai prendere parte ad incontri truccati. Dare sempre l'immagine di una vita e di un'attività agonistica pulite. Il nuovo management porta Louis immediatamente a combattere in un match epico. È una sorta di antipasto dell'incrocio che andremo a raccontare tra poco. Il 25 giugno 1935, allo Yankee Stadium di New York, nel cuore nero di New York, Joe Louis affronta Primo Carnera. Carnera è il gigante del pugilato italiano. Usato come simbolo della potenza del regime di Mussolini, è ora all'inizio della sua parabola discendente. Ma Mussolini crede ancora in lui e quando vola a New York per combattere contro un nero, tutta l'Italia littoria spera in un'affermazione che andrebbe ben oltre la vittoria sportiva. 60.000 spettatori affollano lo stadio, per lo più neri che inneggiano al loro beniamino. ma ci sono anche numerosi americani bianchi che tifano per il pugile italiano e rivolgono cori ingiuriosi a Lewis, che li zittisce tutti. E dopo 6 riprese stende il gigante italiano. Lewis sconfigge Carnera proprio mentre l'Italia si prepara a invadere l'Etiopia. È un colpo duro alla propaganda del duce, un bagno di popolarità per il pugile di colore. Tra vittorie, consensi e apparizioni pubbliche, anche la stampa bianca inizia a sostenere Lewis. Il combattimento per il titolo ancora non arriva, ma il pugile accumula vittorie importanti una sull'altra. Dopo il successo su Carnera, in un match presentato come uno scontro tra continenti e culture, a Lewis viene chiesta una sorta di rivincita. Il suo avversario non sarà Carnera, però, non sarà italiano. Si chiama Max Schmeling. Max Schmeling. È tedesco ed è il nostro secondo personaggio di oggi. Il 19 giugno del 1936, tra i due, viene organizzato un primo match che non ha in palio il titolo mondiale, ma ha comunque un'importanza fondamentale per diversi aspetti. Tra poco li scopriremo e indagheremo sulla vita di Schmeling, qui a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta una storia di sport e di amicizia, che nasce però dal triste racconto di come la natura umana, talvolta, possa condurre verso realtà insensate, come gli odi di razza e le discriminazioni legate al colore della pelle. Il nostro primo personaggio è l'afroamericano Joe Lewis, che a metà degli anni 30 diventa uno dei pugili più popolari d'America, dopo un'infanzia durissima, vissuta nel clima pesante delle discriminazioni razziali del sud degli Stati Uniti. Nel 1936 si accinge ad affrontare a New York Max Schmeling, un pugile tedesco, uno dei tanti simboli sportivi del regime di Hitler. È il nostro secondo personaggio di oggi. Andiamo a scoprire la sua storia. Nello stesso anno in cui Joe Lewis arriva a Detroit per sfuggire alle persecuzioni del Ku Klux Klan, il 1926, Max Schmeling, che era nato nel 1905 nel piccolo paese di Klein-Lukow, nella provincia prussiana della Pomerania, arriva a Berlino. Berlino, alla fine degli anni 20, vive in una sorta di rinascimento. Appena liberata dalla tirannia del Kaiser e non ancora schiacciata dalla pesantezza del regime hitleriano, appare come l'unica vera città cosmopolita di tutta la Germania. Schmeling aveva scoperto la boxe qualche anno prima ad Amburgo, la città in cui si era trasferita la sua famiglia. A metà degli anni 20 si sposta a Berlino su consiglio del suo manager. Se vuole diventare qualcuno, deve misurarsi con la varietà e la frenesia della metropoli tedesca e le infinite opportunità di avversari che essa offre. La boxe a Berlino diventa uno dei passatempi preferiti dell'alta società, che vive con gioia la libertà effimera di quegli anni. I ricchi frequentatori dei cabaret e dei locali notturni affollano anche i palazzetti dello sport per assistere ai match di pugilato, una prospettiva completamente diversa da quella che caratterizza la boxe negli States. In questo contesto, Schmeling, che proviene da una famiglia povera di marinai, diventa una sorta di idolo, come ricorda lo storico tedesco Georg von der Lippe. Max took to the strange... Veniva ritratto, fotografato. Era ricercato da quella sorta di avanguardia intellettuale che guidava la rinascita di Berlino in quegli anni e che sarebbe stata risucchiata e spazzata via dal regime nazista. Max si adattò perfettamente a questa situazione e riuscì a sfruttarla a suo favore. Naturalmente Max diventa celebre anche per le sue doti pugilistiche e per le sue vittorie. Dal 1926 al 1928, non solo in Germania ma in Europa, è quasi invincibile. Per raggiungere il titolo non resta che imbarcarsi su un transatlantico e andare alla conquista dell'America. Mentre attraversa l'oceano, Max non sa probabilmente che la Germania che sta lasciando non esisterà più, ne ritroverà una diversa. E non sa nemmeno che al di là dell'oceano troverà un incrocio che cambierà per sempre la sua vita. Quando arriva a New York, Schmeling deve ricominciare da capo. Per un estroverso come lui, abituato alla frenesia della vita berlinese, adattarsi a una nuova realtà come quella americana non è certo un problema. Così, con un nuovo manager americano, Schmeling si mette al lavoro e punta dritto al titolo. Il nuovo manager è Joe Jacobs, è ebreo, una scelta che causerà al campione tedesco qualche problema in seguito, ma che ora sembra funzionare a meraviglia, come ricorda il promoter Don Majeski. Jacobs era la quintessenza del manager di pugilato. Sempre in smoking, occhiali scuri, sigaro. Era l'uomo in grado di aprirti le porte, di portarti ovunque. Aveva i contatti giusti e aveva visto in Schmeling un talento e un personaggio vincenti. Nel 1930 per Schmeling arriva la chance di giocarsi il titolo. Il suo avversario è Jack Sharkey, americano. Si parla già di battaglia di continenti, una definizione cui Schmeling si dovrà abituare. Il match si svolge a Cleveland, davanti a 50.000 spettatori. Il match ha un andamento imprevisto. Dopo 10 infuocate riprese, Sharkey commette un errore. In un corpo a corpo colpisce il tedesco sotto la cintola e lo abbatte. Jacobs entra urlando stai giù, si scatena un parapiglia. Schmeling diventa il primo pugile a vincere un titolo mondiale per squalifica. C'è la cintura, insomma, ma manca l'onore. Dopo qualche difesa vittoriosa del titolo, Schmeling perde la rivincita con Sharkey, ma è ormai un pugile famoso ed affermato. Nel 1935 torna in Germania e trova una nazione trasformata. Il paese, travolto dalla crisi economica del 29, è stato squassato da violentissime tensioni sociali di cui ha approfittato il Partito Nazionalsocialista. Adolf Hitler, il suo leader, nel 1933 sale al potere in Germania dopo regolari elezioni e inizia ad applicare il suo folle programma. A farne le spese alcuni vecchi amici di Max, colpevoli di essere ebrei, comunisti o omosessuali. Nel famoso rogo di libri di Berlino ce ne sono molti scritti da artisti vicini a Max Schmeling. Le capacità di sopravvivenza e di adattamento del pugile tedesco sono incredibili. Invece di pagare a caro prezzo queste amicizie scomode, Max si vede salvato dal destino e immediatamente annoverato tra gli sportivi ufficiali del regime. Nel 1932, infatti, aveva sposato Annie Ondra, attrice tedesca bionda e bellissima, uno dei manifesti viventi della cosiddetta razza ariana, una delle attrici preferite dal Führer. Diventano la coppia più glamour di tutta la Germania e Max un vero e proprio eroe. Descrive bene quel periodo Georg von der Lippe. Max Schmeling non era affatto un fan di Hitler. Anzi, i nazisti non gli piacevano affatto, come dimostrò in seguito. Ma amava stare al centro dell'attenzione. E capì bene che in quel momento quello era il potere. E doveva accettare il compromesso per la sua carriera. Era un vero e proprio patto con il diavolo che viveva spesso di momenti rischiosi. Nel 1935 Schmeling fu chiamato a combattere ad Amburgo. Si presentò con il suo manager Joe Jacobs, che era ebreo. Al momento dell'inno nazionale tutto il palazzetto fece il saluto nazista, anche Schmeling e anche Jacobs, ma lo fece tenendo il sigaro nella mano con cui lo stava facendo e la cosa fu giudicata irriverente e sollevò numerose polemiche che Schmeling dovette smorzare. Questo era Max Schmeling. E così come era, Max era amato perdutamente dalle folle. I tedeschi lo adoravano. Quando nel 1936 a New York viene scelto per affrontare il pugile più caldo di tutti gli Stati Uniti, il nero Joe Louis, dietro di lui c'è un intero paese, un intero, complesso apparato ideologico. A New York quella sera si scontrano due pugili, due nazioni, due continenti, due razze. Si scontrano soprattutto i destini di due uomini che non saranno più gli stessi. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside, everything it seems. Destini incrociati. Oggi a destini incrociati attraverso le vite di Max Schmeling e di Joe Lewis, attraverso il dramma del nazismo e dell'antisemitismo e quello dello schiavismo negli Stati Uniti del Sud, siamo arrivati a New York, il 19 giugno del 1936. Qui questi due pugili si stanno per affrontare e con loro entrano in rotta di collisione due visioni del mondo antitetiche. In Germania, per la verità, gli ambienti ufficiali sono molto perplessi a causa di questo match. Schmeling, il pugile più forte che la Germania possa vantare, è un simbolo del regime. Ha però 9 anni più del suo avversario e perdere contro un negro per Hitler e Goebbels sarebbe sconveniente. Schmeling però si prepara alla perfezione per il match e al 12° round abbatte Lewis, come ricorda Julian Black, uno dei suoi manager. Eravamo sicuri che Joe avrebbe vinto. Forse troppo sicuri. Schmeling ci colse di sorpresa, così come ci sorprese la strana composizione dei tifosi. C'erano bianchi americani che tifavano contro, dando grande prova di razzismo, secondo me. Schmeling torna in patria come un eroe. Ha ottenuto una vittoria epocale. Il destro di Hitler ha abbattuto il bombardiere nero. A riportarlo a casa è lo Zeppelin, il dirigibile più famoso dell'epoca. Lo accolgono le alte sfere del regime al completo, in una gloriosa parata. Il caldo abbraccio della Germania nazista lo trasforma in un simbolo della campagna razziale. Gli americani, impressionati dalla furia di quel pugile 31enne, ma ancora così forte, gli propongono la naturalizzazione. Lui la rifiuta e il Führer lo adotta definitivamente, nonostante quel manager ebreo. Joe Lewis raccoglie i pezzi dopo la sconfitta, ma si presenta puntuale all'appuntamento agognato con il Mondiale, cercando di dimenticare la batosta presa da Schmeling. Il 22 giugno del 1937 a Chicago, Joe sconfigge James Braddock e diventa il secondo pugile nero della storia a laurearsi campione del mondo. Il bombardiere nero ora guarda tutti dall'alto, quasi tutti. Per completare l'opera serve la rivincita con Schmeling. La sfida lanciata viene raccolta da Schmeling e dal regime nazista. È la voce dello stesso Schmeling a raccontarlo alla radio tedesca dell'epoca. Ho accettato di volare ancora al di là dell'oceano per affrontare Joe Lewis e per portare in Germania il titolo mondiale dei pesi massimi. La data viene fissata per il 22 giugno del 1938, sempre allo Yankee Stadium. Un match di un'importanza capitale, soprattutto dal punto di vista politico, combattuto 3 mesi dopo l'Anschluss e alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, come ricorda Rino Tommasi, uno dei massimi esperti italiani di pugilato. La rivalità tra Schmeling e in un'epoca in cui c'era la Germania di Hitler, c'erano state le Olimpiadi di Berlino nel 1936, eccetera, eccetera, è stato l'episodio sportivo più importante nell'evoluzione, insomma, dello sport. Joe Lewis è determinato e convinto, come ha modo di dichiarare a un cinegiornale. Sono passati 2 anni dal nostro primo match e ho una nuova consapevolezza. 2 anni in cui sono maturato e sono diventato un pugile più forte. Quando il match inizia, quella sera, la tensione è alle stelle. 2 paesi sono incollati alla radio per ascoltare l'esito di una battaglia che va oltre lo sport. Una battaglia che tutti prevedono lunghissima. Joe Lewis in his corner, panting and rubbing his feet in the rosin. Max Schmeling standing calmly, getting last word from Duck Casey. And they're ready with the bell just about to ring. And there we are. Tutte le previsioni saltano anche in questa occasione. In soli 2 minuti, Lewis si sbarazza di Schmeling e lo mette KO. La Germania del Führer è esterrefatta. Lewis frattura anche 2 costole a Schmeling. L'orgoglio nero trova una delle prime straordinarie attestazioni internazionali. È a questo punto, però, che succede l'imprevedibile, che l'incrocio tra i 2 pugili diventa l'incrocio tra 2 uomini, che il coraggio e la forza di 2 persone autentiche vanno oltre le insensate barriere razziali e ideologiche e vincono sulla stupidità della guerra. Joe chiese notizie di Schmeling a fine match, perché sapeva di avergli fatto male con un colpo poco ortodosso alla schiena, e decise di andarlo a trovare in ospedale. Un gesto pazzesco, se si pensa a quel che stava dietro quel match. Pazzesco è anche pensare che tra i 2 nasca un'amicizia. Un'amicizia che diventa intensa, mantenuta a distanza con un rapporto epistolare, quando Schmeling torna in patria e paga a caro prezzo la sconfitta. È l'unico atleta del Reich a essere mandato al fronte in Grecia nei paracadutisti. Proprio durante un lancio si fa male gravemente alla schiena, mentre sua moglie, l'attrice Annie Ondra, viene completamente esclusa dall'industria cinematografica. Così, alla fine della guerra, i coniugi Schmeling sono in disgrazia e in povertà. Joe Louis, invece, è ancora un pugile sulla cresta dell'onda. Così chiama il vecchio rivale e gli fa una proposta. Attraverso i suoi sponsor può fargli avere una concessione per una fabbrica di Coca-Cola da aprire in Germania. Max coglie al volo la possibilità, impiega 500 persone e guadagna in 2 anni oltre 2 milioni di marchi, sistemandosi per la vita. Per i grandi uomini, la gratitudine è una delle doti principali. Schmeling e Lewis, grandi uomini lo sono, più forti di ogni barriera ideologica. E il tedesco non dimentica quello che il bombardiere nero ha fatto per lui. E quando a fine carriera Lewis paga il cinismo dell'industria dello sport americano, che accantona subito i propri idoli dopo averli spremuti e finisce in disgrazia, interviene immediatamente. All'inizio degli anni 70, infatti, Joe, che ha problemi seri con l'eroina, scopre di essere affetto da una grave cardiopatia. Grazie all'intervento economico di Schmeling e un contributo importante anche di Frank Sinatra, Lewis riesce a farsi operare a Houston, un delicatissimo intervento a cuore aperto. Morirà nel 1981. Schmeling, invece, arriverà fino ai 100 anni, spegnendosi nel 2005. La loro splendida storia, invece, merita di essere raccontata e tramandata. Ha presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23 qui su Radio 24.